ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. 15ª puntata. Iniziato lunedì con un prelievo da 150 cc. Non sono ancora attrezzato. Ho proceduto con piccoli salassi, utilizzando una siringa da 2,5 cc, rinnovando il foro in corrispondenza della vena più grossa del braccio. A ogni foro lago sempre più spuntato ha esteso un ematoma di un viola impresentabile, dal deltoide fino al polso. Nello schermo del PC un fermo immagine mi regala l'ultimo sorriso di Clara. Pulisco gli schizzi rossi. La bottiglia con il mio sangue è in frigo. Porterò le bottiglie al doc. Lui saprà che farne. Come lavorarlo. Lo farà montare come si fa con le uova. Mi cambio. Non ho più lavato nulla da quando è andata via Sara, ma la roba ammucchiata nel bagno di servizio asciutta. Maglia a maniche lunghe, nonostante il clima mite, e pantaloncini corti. I primi 10 minuti di corsa sono scivolati bene, l'asfalto pare soffice, nessuna tensione della muscolatura, solo il campo visivo è oscurato da ombre, piccoli aloni che scendono come coriandoli neri. I veicoli sulla strada sono macchie scure incombenti, corro ingobbito, senza alzare lo sguardo verso i finestrini dei mezzi. È la solita sensazione di vulnerabilità che mi coglie fuori dalla pista, nel mondo normale. Amplificata dalla debilitazione del prelievo che rende insopportabile la sensazione di pericolo. Oggi non saprei come affrontare le insidie di un ragazzino nomade, le urla di un tossico o di un alcolizzato, il ringhio minaccioso di un cane randagio. Dovrei proteggermi, accartocciato su me stesso con le mani dietro la nuca e la testa tra le ginocchia, chiedendo pietà, come Clara nel video. Il mio organismo deve solo abituarsi a lavorare in economia. Nei prossimi giorni andrà meglio. I tempi di passaggio presi nei punti di riferimento sono davvero lenti. Non mi ero reso conto di quanto il ritmo fosse deludente. Al 5° chilometro l'orologio ha decretato 17:30. Nella settimana top, quella che precedeva la gara in Emilia, ero passato in 16:15 senza affanno. Poi la progressione mi aveva portato a 15:50 nei secondi 5, per chiudere in 15:10. Non so esattamente con quali modalità i biochimici eseguivano sugli atleti la procedura dell'autoemotrasfusione, metodologia poi resa obsoleta dall'uso dell'EPO. Non so se i soggetti riprendevano gli allenamenti subito dopo i prelievi. Forse non doveva esserci nessuna interruzione della preparazione. Il mezzofondista non deve perdere l'automatismo del gesto atletico. I primi lavori erano prudenti. Occorrevano almeno 2 settimane per tornare agli standard, alle massacranti sedute di prove ripetute. I risultati cronometrici dei test di simulazione della gara davano esiti spesso contraddittori. Di certo il professor arrivava in elicottero nei luoghi dei ritiri nell'ultima settimana di preparazione. Isole atlantiche a temperatura costante tutto l'anno, altipiani messicani o alpini. Dopo una serie infinita di esami clinici, il sangue arricchito e ossigenato veniva reimmesso nelle vene degli atleti stremati dai 3 allenamenti giornalieri. Non trovo nulla di inquietante in tutto questo. Il professore ridava vita vera. L'atleta risorgeva dopo settimane di sacrificio estremo. Nessun escamotage cialtronesco. Solo manipolazioni organiche eticamente giustificabili. Definire tutto questo come truffa sportiva è davvero riduttivo. Le pale dell'elicottero che atterrava in uno spiazzo erboso accanto agli impianti sportivi spazzavano dubbi e paure, ridavano speranza. Il sorriso rassicurante del professore diradava nubi nere. L'atleta più è forte, più è fragile. La valigetta conteneva ampolle sacre, sangue benedetto. A pochi giorni dalla gara il miracolo si compiva nel rito della trasfusione. L'emoglobina accendeva di nuovo le cellule che impazzivano ordinate. 4-5 giorni dopo, i media avrebbero onorato un nuovo campione. Il nuovo campione, intervistato con le medaglie al collo, avrebbe ringraziato i carboidrati, le lasagne della mamma. Sono stordito quando raggiungo la mia abitazione. Ho chiuso gli ultimi 5 chilometri in 18 scandalosi minuti. ma è uno stordimento piacevole. Il mediocre risultato era prevedibile, quasi cercato. La cascata di ombre si fa fittissima. Cerco di catturare il volto sacro sul monitor perché mi accompagni nel sonno che confina con lo svenimento. Fuori ha preso a piovere. È bello che abbia iniziato a piovere solo dopo l'allenamento. Da una ricerca più accurata in rete è emerso che Goffredo Melogli, il saltatore e il lungo primatista della categoria allievi, pur senza raggiungere picchi internazionali, ha continuato la sua attività, arrivando a vincere il titolo amatore indoor nel 2001 a Napoli, nella categoria over 40. Non si è piantato per sempre nella sabbia della buca del salto in lungo. È uscito dal campo scuola di Isernia con dignità. Non ha mai smesso di saltare. Non è stato campione olimpico, ma a 40 anni si permette un 6 metri e 60, davvero commovente. Penso che staccherò la sua foto dalla parete. Da 6 giorni non metto le scarpette da corsa. Record negativo. È dall'età di 9 anni che corro senza interruzione. Senza fermarmi a pensare. Da quando non corro sono più lucido, attento ai dettagli, anche se i pensieri si aggrovigliano nel cervello come serpi. Continuo a prendere steroidi e stimolanti, ma non spreco nulla in attività fisica. I neuroni si coagulano come insetti impazziti su escrementi. Non faccio altro che pensare alle parole del doctor. Ha ragione, ho esaurito l'energia vitale, non c'è ricircolo tra il mio corpo e l'universo. Sento le vene restringersi, le arterie occluse da placche, le fibre muscolari inarridirsi, asfittiche. La mente si limita a sezionare ed estrapolare fotogrammi. La poetessa a cui lo sport faceva schifo, quella che non poteva capire la mania agonistica. Come ho fatto a non riconoscerla? Avrò guardato 1000 volte l'immagine del raduno, ma fissandomi sempre sui soliti soggetti, Clara, Giulio e Roberto. La ragazza che ho incontrato al bar sarà stata 70 kg di adipa e ritenzione idrica. Ma i tratti del viso non mentono, sono solo appesantiti. I tessuti molli sotto il collo e il gonfiore delle gote incorniciano senza pietà l'espressione dell'adolescente della foto. Sono andato per esclusione. Le ragazze sono 7 in tutto. Quelle troppo magre sono le mezzofondiste. Quelle troppo grasse sono le pesiste. La sua corporatura poteva corrispondere a quella della lunghista che aveva tradito Clara parlando del suo malessere. Lei sapeva troppe cose. Forse ha trovato uno su cui scaricare parte dei suoi sensi di colpa. Sembra tutta una coincidenza. Sono io il trade union di questa maledizione. Forse con Clara si frequentavano da sempre, oppure era ripiombata nella sua vita all'improvviso, sotto sembianze di amica sincera. Clara era una persona sola, fragile. Si era fidata di quella vecchia conoscenza. Le aveva parlato di me. Oppure era rimasta chiusa come un riccio e lei aveva ficcato il naso nella sua posta elettronica. Magari dopo la sua morte. Sono tornato al paese di Clara. La madre dice che la figlia non frequentava nessuno da quando avevano cambiato città. È ancora scossa. Mi parla senza guardarmi in faccia e senza sganciare la catenella della porta. Alle spalle si erge un'ombra oscura. Il padre è un uomo di corporatura imponente, il viso intagliato da rughe, gli occhi 2 monete di nichel in orizzontale. I 2 aspettano solo di morire, senza scaricarsi colpe, troppo anziani per avventurarsi in una nuova natività. Vogliono che quel dolore assoluto che scava il petto ammutolisca per sempre, quanto prima. Non mi invitano ad entrare. Vorrei prendere a pugni quella porta, piangere con loro. Pessima idea tornare in questa città a tormentare queste 2 persone. È ora di tornare nel mio sepolcro, prima che la luce mi uccida. Stavo per imboccare il viale della stazione quando sento gridare. La madre di Clara è dalla parte opposta della strada, davanti a una gelateria con i tavolini brulicanti di giovani. È trafelata, mi ha rincorso fino a farsi scoppiare i polmoni. La raggiungo al bar, ordiniamo 2 bicchieri d'acqua naturale. Il cameriere attende altre ordinazioni per qualche secondo, poi sparisce oltre la porta. Da vicino mi rendo conto della somiglianza di Clara con la persona che mi sta di fronte. Forse la madre in età giovanile era stata più bella della figlia. Dovremmo iniziare con frasi di assestamento. Ma il dolore ha scavato trincee, non lascia spazio a tatticismi e bon ton. Lei chi è? Mi piacerebbe dire che ero un amico di Clara, mi piacerebbe dirlo, ma non è del tutto esatto. Eravamo in contatto post elettronica. Dio mio, detesto queste cose, mi fanno paura. Non c'è nulla di male, capita tra persone che hanno gli stessi interessi e abitano in luoghi diversi. Che interessi? L'atletica. Clara odiava quello sport. L'aveva praticato da bambina per qualche mese, ma non gliene importava più nulla, le era venuto a nausea. Non la guardava nemmeno alla televisione. Si era dedicato ad altro, insegnava in un istituto molto prestigioso, traduceva libri, cose molto lontane dallo sport. Correva tutti i giorni lungo il fiume. Non mi risulta. Aveva amici. Si era guardato intorno, aveva roteato la testa, aveva fatto un cenno al cameriere, aveva armeggiato nella borsa, avevo fatto la domanda sbagliata. Dirlo mi fa male, ma non aveva nessuno, tantomeno amicizie maschili. E questa Sandra? La ragazza che era al funerale, non l'avevo mai vista prima. Si è fatta un'idea delle ragioni del gesto di Clara. Non so perché sono seduta al tavolino di un bar a parlare di mia figlia con uno sconosciuto. Perché dalla morte di sua figlia non l'aveva ancora fatto. E perché si sta rendendo conto che non conosceva sua figlia. E lei la conosceva? Credevo, ma una brutta persona sta confondendo le carte. La scena madre di una brutta fiction televisiva. Aveva rispettato il copione. Aveva iniziato a singhiozzare all'arrivo del cameriere, che era scivolato oltre per prendere un'altra ordinazione. Una coppia alla resa dei conti. Lei una signora borghese ancora piacente, lui molto più giovane, doveva riprendersi la propria vita. Era questo il quadro apparente che affidavamo agli sguardi estranei. Continua a giocare al giovane sbirro che seduce il testimone chiave. Nulla di strano negli ultimi tempi. Si era asciugato il viso con un fazzoletto, in uno spigolo le iniziali della figlia. Aveva sempre parlato poco con noi, anche da bambina. Nessun astio, era solo molto riservata. Non lo so, di recente aveva praticamente smesso di mangiare. Penso avesse perso una decina di chili in poche settimane. Mio marito ed io eravamo molto preoccupati. Non voleva vedere dottori. Così magra dimostrava di essere più giovane. Forse sì, fisicamente, ma il viso era quello di una persona malata. È sicura che non vi rimproverasse nulla. Non le auguro di sopravvivere al suo unico figlio. Devo andare, mio marito sarà preoccupato. Mi aveva squadrato per un attimo ancora prima di alzarsi dal tavolo. Ma lei chi è? Sono tutto, sono come tutti. Sono un essere insignificante. Le avevo fornito una sintesi. Avrei invece voluto urlarle in faccia che Clara, fuori dalla pista, aveva iniziato a morire, aveva condotto un'esistenza deviata, artificiale, destinata ad essere abortita. Clara doveva continuare a fare atletica, avrebbe superato quel periodo in cui il suo corpo aveva perso agilità, avrebbe ritrovato equilibri ormonali, i fianchi si sarebbero assestati, smettendo di allargarsi, avrebbe guadagnato centimetri in altezza per riprendere a volare per le strade e per le piste, facendo di nuovo gridare al miracolo. Quello era il suo destino. A lei non interessava tradurre poeti inglesi, insegnare ad adolescenti aridi in istituti diretti da fondamentalisti cattolici. Era tutto un tragico imbroglio in cui si era arenata senza colpe. Ho viaggiato nella notte. Le luci punteggiavano il nulla di una pianura sempre uguale. Lo scompartimento per fortuna era vuoto, nessun extracomunitario, nessun pendolare. Nessuno si è preso il disturbo di controllare il mio biglietto. Arrivato a casa ho acceso il PC prima ancora di accendere la luce del salotto e dello studio, prima di lavarmi e di urinare, come quando attendevo con ansia le mail di Clara. La posta in arrivo contiene una sola mail, quella che aspettavo. Mail from Arlati Clara to Claudio Seregni. Anche io ho rintracciato Clara via mail. Ma ho avuto la forza di incontrarla quasi subito, 2 giorni dopo il primo contatto. Al tempo del raduno eravamo pulite. Eravamo piccoli capolavori. Dovevano imprigionarci in una bolla di ambra e consegnarci all'infinito perfette e incontaminate. Nel bar della stazione non l'avevo riconosciuta. Non mi aveva riconosciuta. Anche le sue carni si erano gonfiate. La pelle bianca era inquinata da macchie e acne. La sua decomposizione doveva essere iniziata quando era iniziata la mia. Io avevo scelto di allontanarmi dall'atletica di mia volontà. Avevo dato ascolto ad amiche che mi avevano trascinato altrove, verso fidanzati troppo stupidi. Avevo smesso di saltare, avevo smesso di scattare dai blocchi. Il mio volo era finito. Non mi ero preparata a nessuna alternativa di vita. L'atletica era la vita. Poi avevo iniziato a morire, senza rendermene conto. Per lei erano intervenute forze esterne. Questo rendeva ancora più tragica la sua storia e banale la mia. Ero ingrassata improvvisamente a 16 anni dopo un aborto. La mia prima estate libera, senza gli assilli degli allenamenti, si era rivelata il buco nero della mia esistenza. La forza vitale di quell'età maledetta da qualche parte doveva esplodere, per il solo gusto di un bagliore nella notte. Clara aveva problemi nervosi. Era facile intuirlo, alternava silenzi e improvvisi accessi di ira e di gioia ingiustificata. Un carattere indefinito, frasi che si rincorrevano contraddicendosi. La persona che avevo ritrovato era una creatura orrenda e disperata. Un ibrido uscito da due vite castrate, lo scricciolo timido ma curioso che avevo conosciuto al raduno regionale un mignoli di anni prima, era imprigionato in quel blocco di grasso e acqua che non trovava pace. Mi aveva parlato dell'istituto di preti, mi aveva parlato di te, delle tue lettere, forse si era anche innamorata, ma non voleva farsi vedere in quelle condizioni. Era cosciente del disfacimento in atto, che gli anni dell'atletica erano stati il suo capolavoro. Dopo non era successa più nulla, anche se la laurea non aveva dato conforto. Stava maturando l'idea di lasciare l'insegnamento e le traduzioni. Delirava. Voleva ricominciare a correre. Diceva cose completamente irrazionali. Mi aveva chiesto di aiutarla nella preparazione. Avrebbe anche lasciato l'insegnamento e iniziato una cura dimagrante rigidissima. Il suo sguardo appannato mi aveva fatto pensare subito all'uso di psicofarmaci che avrebbero giustificato quell'assurdo slancio di entusiasmo. Nel suo organismo non c'era una sola cellula ancora predisposta all'attività sportiva. Voleva mostrarmi vecchi programmi di allenamento che teneva nella borsa. Oltre alla carpetta erano scivolate sul tavolo scatole di Valium, Rohypnol, Prozac, Minias, Xanax. La cosa non l'aveva nemmeno imbarazzata, si era limitata a recuperare le confezioni e a illustrarmi il primo foglio. Addestramento tattico e psicologico nelle corse di lunga durata. Ho desiderato solo di vederla morta. L'avevo desiderato subito. Era già morta. E tu non sei un cazzo. Non lo sei mai stato. Clara ti ha risposto solo una volta. Sono stata io poi ad assecondare le tue stupidaggini, i tuoi deliri. Anche dopo la sua morte. Ho creato una sua proiezione credibile. Ho immaginato una persona accettabile e nelle mail te l'ho raccontata come meglio ho potuto. Ho verificato dati e risultati. Ci sono salti temporali che non corrispondono. Lo scricciolo biondo dei tuoi ricordi è Clara. Sandra. Non torna nulla. La poetessa dice solo bugie, sempre. Non posso crederle. Mi sono iniettato il contenuto di due fiale di Testovis e sono uscito lasciando fiala succhiata e siringa sulla lavatrice in bagno. La stimolazione nervosa mi ha reso al solito aggressivo ma lucido, per nulla disarticolato nelle azioni, attento alla guida della mia auto. Spesso i podisti sono additati come pessimi piloti. Giulio non è apparso infastidito o sorpreso, è un uomo vecchio, disperatamente vecchio. Una vita al servizio dello sport, a contatto con i giovani, non preserva dalla maledizione del tempo. Mi ha fatto sedere in cucina, la moca del caffè sul fornello. Quasi mi stesse aspettando. Un grembiulino a scacchi azzurro lo consegna al ridicolo. Caffè? Non è il caso. Sei qui per la ragazzina della foto, quella che hai appeso al campo? Voglio che mi racconti la favola, tutta, o non mi addormento. Ti deluderà. Lascia decidere a me. Non ci sono i cattivi. Cos'è una favola senza il bene e il male? Dimmelo tu. È qualcosa di mediocre, di inutilmente triste. Ti sei mai chiesto perché Clara andasse così forte? Oramai penso di poterlo immaginare. È la favola della bambina fantastica e degli stregoni malvagi. Ci sono pentoloni di sangue fresco, ampolle, cose così. Qualcosa tra Harry Potter e un film dell'orrore. Non sei cattivo, sei un idiota. Dimentichi che venivano bombati solo atleti che avevano dimostrato doti naturali fuori dal comune. Esattamente come nei paesi dell'est. Clara era solo una ragazzina più veloce delle altre. Tutto qui. Non esattamente. Diciamo che era un ragazzino, o quasi. Non ci sono esseri malvagi in questa storia, te l'ho detto. Avete scaricato Clara. L'atletica era tutto per lei. Clara al campo non ce la volevamo più, perché durante il ricovero in ospedale si erano accorti che era un'ermafrodita. Una storia di X e di Y. Non chiedermi di ripeterla. Non sono un dottore. Non potevamo farla gareggiare nella categoria femminile. I suoi malesseri erano di origine ormonale, un organismo in eruzione che combatteva una battaglia devastante. Durante lo stage, nella notte aveva aggredito la compagna di stanza. Probabilmente la parte maschile aveva preso il sopravvento. Una faccenda imbarazzante. Cristo, ti dà gusto di seppellire cadaveri, scoperchiare tombe? Sei andato anche a tormentare quei disgraziati di genitori. Vedere quella foto al campo non ci ha fatto un bell'effetto. Credi che sia stato facile dimenticare per me e per Roberto? Andare avanti con altri ragazzini come se nulla fosse. Adesso togliti dalle palle. Per sempre. Ho riempito degli scatoloni con le vecchie riviste e i miei album. Ho staccato i poster dalle pareti. Con l'abbigliamento sportivo ho fatto 5 sacchi neri della spazzatura. 2 solo per le scarpe. Da allenamento, da gara, da pista, da campestre. 17 paia, comprese quelle consunte nei punti di appoggio, che non mi decidevo a buttare. Noi atleti siamo esseri commoventi. Stupidi. Molto stupidi. Ci affezioniamo alle scarpe. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.